il cibo sacro. Il cibo sacro per eccellenza è composto dal pane e dal vino eucaristico. La società medievale, profondamente cristiana, identifica il pane e il vino della messa come gli alimenti più nobili e spirituali. Non manca la carne, almeno sotto forma simbolica, in quanto nel mistero della transustanzione, come si va ben delineando nella teologia dell'epoca, il pane eucaristico è la carne di Cristo crocifisso, donata in simbolo, in sacrificio per la salvezza dei fedeli. Pane, vino e carne, dunque, non casualmente, costituivano gli alimenti più diffusi attorno ai quali ruotava sia il sistema di produzione reale del cibo dell'epoca, sia il corrispondente simbolico e spirituale, che rendeva unita la società medievale. Nel mondo monastico il simbolismo si spinge a prediligere alcuni cibi anziché altri. In particolare, poiché la carne è percepita come un'espressione di nobiltà e ricchezza, il monaco, che vive in umiltà, la sua condizione, la elimina dalla sua dieta. L'alimentazione del monaco si basa sulle zuppe di cereali e legumi, sulle verdure dell'orto conventuale, sulla presenza di uova, formaggi e pesci, considerati cibo di magro. Più tardi, anche a seconda della collocazione geografica dei monasteri, in territori più freddi, saranno introdotti con parsimonia alimenti più energetici, ma sempre poveri, come il lardo o gli spezzatini di carni povere.